GR Europa. Un saluto da Gigi Donelli. L'Europa deve star fuori dalla campagna elettorale, ma può davvero farlo? Ieri abbiamo aperto con Olli Rehn, commissario UE all'economia, che criticando Berlusconi ha sollevato un vespaio tra Bruxelles e Roma. Oggi ripartiamo da Mario Monti, che questa mattina qui a Radio 24 ci ha regalato un'istantanea del finlandese che guida l'economia europea. Devo dire che è un commissario molto duro, fa il suo lavoro di commissario per l'economia in modo molto rigoroso. Io in quest'anno di governo tante volte ho fatto molta fatica e qualche volta non ci sono riuscito a portarlo su posizioni più morbide, quindi non è che sia un osso semplice neanche per me. Olli Rehn il duro, insomma. Monti intanto è arrivato a Bruxelles, domani mattina incontro con il presidente del Consiglio europeo Van Rompuy, poi Berlino per visitare la cancelliera federale Angela Merkel. 800.000 posti di lavoro, 73 miliardi di fatturato, il sistema ferroviario europeo è una grande industria, l'Italia, pensate, un modello cui si ispira la Commissione, che oggi ha presentato un pacchetto, è il quarto, per migliorare l'offerta dei servizi. Sentiamo Jocelyn Fairdeau della Direzione Generale dei Trasporti. Il primo fronte è un fronte tecnico, vogliamo delle regole di sicurezza comune a tutti i paesi dell'Unione Europea. Il secondo aspetto riguarda l'apertura di mercato. L'operatore italiano che vuole operare in Germania deve avere gli stessi diritti d'accesso che un operatore tedesco. Il terzo aspetto riguarda l'organizzazione del sistema. Vogliamo far sì che il gestore delle infrastrutture della rete ferroviaria sia indipendente dall'operatore storico, per far sì che sia chiaro che vanno trattati tutti gli operatori in maniera equa. In Europa come siamo messi? L'Italia è all'avanguardia, nel senso che fino a oggi l'apertura dei servizi del traffico passeggeri nazionale rimaneva un'iniziativa di certi stati membri, ma non era obbligatoria. Con il quarto pacchetto ciò che ha fatto l'Italia diventerà la regola per tutti i paesi europei. Jocelyn Fairdeau della Direzione Generale Trasporti. Continuiamo a parlare di trasporti, ma questa volta di aerei. Alla fine ne resteranno tre. I processi di concentrazione del sistema aereo in Europa seguono un corso e la vicenda all'Italia sembra preludere un nuovo passo in direzione Air France KLM. Vito Riggio, presidente ENAC, spiega che questa è una delle conseguenze inevitabili del cosiddetto cielo unico europeo. Il cielo unico è formalmente realizzato, bisogna fare presto i blocchi funzionali per quanto riguarda la navigazione aerea. Noi siamo dentro un costituendo blocco funzionale del sud Europa, questo consente anche ulteriori risparmi. Bisogna prendere atto una volta per tutte che l'Europa va da anni verso una concentrazione delle sue molte compagnie. Diceva la De Palacio 10 anni fa, alla fine ne resteranno 3 o massimo 4, perché è impensabile con un cielo unico di avere tante compagnie regionali. Quindi processi di concentrazione attorno ai due poli fondamentali più britici, insomma, cioè Lufthansa e France, sono inevitabili e noi siamo dentro questo processo. Dal 2003 chiede di poter incontrare con regolarità la figlia, che oggi ha 12 anni, ma finora Sergio Lombardo, nonostante sentenze gli abbiano dato più volte ragione, non c'è riuscito. La colpa, ha decretato la Corte di Strasburgo, condannando l'Italia, è da imputare soprattutto ai tribunali, incapaci di mettere in atto misure concrete che diano attuazione alle loro decisioni. Domani avremo con noi un giudice della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che da Strasburgo giudica sul rispetto da parte degli Stati degli obblighi che si sono assunti ratificando la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e i protocolli aggiunti negli anni. Vi segnalo, se volete contribuire con le vostre domande, greuropa@radio24.it. Con questo ancora un saluto da Gigi Donelli, appuntamento con GR Europa domani poco dopo le 3. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.